Cazzo, a me mangio che gioco manno e si è buttato uno che sta da 5 anni, boh. Cazzo di bebè. E parli di là, mi ha comprato una macchina, mi ha la banda. E poi, avrei comprato il abbassamento alla lira. Dai, dai. Ormai che fammi le sorti così in me. Allora, sarà Lucienda, Edo, poi non c'è quasi mai con lui. Lui patente allora gli hanno sequestrato. Lui non può guidare. Cazzo se andava nella Baima. E rimane che la suia. Da quando è qualche bus andrà a pigliarlo, fa un giro e boh. Pensa tu, lui. E cazzo ne posso di una così. E tu pensi che con lui non ha mai trombato? E ti spiego perché. Gli ha detto poi facciali. E lui ha detto, no, ti giuro, ma è fatto perché lì vuole che vi compri un appartamento, se no non gli piace fare in macchina. E a casa tua? No, c'è mio fratello malato e non si può fare niente. E il cazzo, invece con me anche in macchina trombava, ragazzi. Vabbè, e tu faccio meglio che manca pure la macchina con parato, vai vai. Peggio bello, peggio per lui. E mi ha detto, hai visto là, chi mi vuole bene? Sì, ti ho comprato la macchina che ti vuole bene. E firmi in nera, vai. Cazzo. Non devi crescere già. Ma, allora uno, per voi ti fa capire, ti vuole bene, ti comprare la macchina e poi l'abbassamento in muro. Mamma mia, fine. Se io penso anche a un domani, che domani che lui non c'è più, e occhio, che... Qualche persona che ha detto così è molto brillante, questa persona è mucca. Appunto. Allora, quindi. Ma, c'è il vostro, mezzo bisolino il vostro Manuel. Tocca, non ti sei guccato ancora? Sono guccato, però... Sì, che baracchino in mano, che ho portato in su. Se cosa fai? Se devi andare lì, glielo porti a Fusaro, magari te lo fanno anche loro. Difficile che lo fanno. O se no, se ce l'hanno un adattatore per lì. Vediamo. Tu la dici, chi sei con il microfono? E tu gli dici, scegli il microfono che vuoi. Io mi sa che è una bella... Ci vado con il microfono con questo portatile. Voglio un microfono e va bene per qua. E tanto cosa lo bai? Desiderio lo bai. Cosa microfono? E allora cosa vuoi tu? Vabbè, lui se le venderà questi microfoni, no? Penso di sì. E le proverà chi va bene, giustamente. Ne avranno sì di quei microfoni, ce li aveva una volta. Dovrebbe averli. Va bene, dai, però mi metto a caricare questo balluccio questa sera. Lui ti compro due banane. Cosa vuoi, Cichita lui? Ehi, hai dei buoni. Di quelli grossi. Dai, c'era dopo minuti. Attendete, dei grossi. E sai cosa va bene, sai? Ma, spiotico, ma cosa mi sa? Andare, bravo, va a coccate, va. C'è con gli coccato. Yeah, vabbè, dai, ci sentiamo, dai, poi già diciamo che oggi vi do di banane. Venga, ciao a tutti, a dopo. Ciao, ciao, Manuel, ciao.